9 in punto. La politica nel tunnel. Buongiorno cari ascoltatrici e cari ascoltatori, la sigla dice ancora la politica nel tunnel, ma come avete sentito abbiamo tolto il nostro ascoltatore Angelo dalla provincia di Bergamo, che invitava i partiti a fare un accordo perché l'Italia sta morendo, perché l'accordo alla fine è arrivato. Vedremo se il governo di Enrico Letta otterrà la fiducia del Parlamento. Oggi vogliamo parlare di quello che è avvenuto ieri davanti a Palazzo Chigi, della sparatoria. Come si diceva poco fa nell'anteprima, vogliamo capire se ci sia qualcosa di più profondo che cova sotto la cenere della società italiana, un fuoco più profondo che cova sotto la cenere della società italiana. In realtà i messaggi che ci state scrivendo in questo momento sulla nostra pagina Facebook e che mi state scrivendo anche su Twitter sembrano dimostrarlo per certi aspetti. Mi scrive Vincenzo su Twitter: in Italia l'odio di classe esiste ancora, solo che ha cambiato bersaglio, adesso sono i politici. E ancora ci citate come esempio, mi citate invece sulla pagina Facebook i suicidi che sono avvenuti, i suicidi di imprenditori e di lavoratori. Insomma, l'idea è che ci sia anche un filo sottile che collega un episodio come quello avvenuto ieri agli episodi di disperazione per la crisi, per gli effetti della crisi ai quali abbiamo assistito negli scorsi mesi e nelle scorse settimane. Parliamo di questo oggi e mi serve molto, davvero tanto, la vostra opinione oggi. 800 24 00 24, serve sempre, ma oggi in particolare. Iniziamo da Flavio Zanonato, che è ministro dello sviluppo economico e ancora per poco, credo, sindaco di Padova. Buongiorno Zanonato. Ci sente? No. Evidentemente è caduta la linea, sappiamo che in treno a volte, come sapete, verso queste ore le comunicazioni sono piuttosto complicate. Giorgio Airaudo è deputato di Sinistra Ecologia e Libertà. Mi scusi Airaudo, mi sono confuso un po' perché siamo ancora un po' abituati a vederla come sindacalista, ex responsabile auto della FIOM. Buongiorno Airaudo, benvenuto. Buongiorno a voi, anch'io continuo spesso a considerarmi ancora più in quell'esperienza che in quella nuova, c'è ancora fatica a capire dove sono arrivato. Ed è anche in quella veste che la vogliamo, naturalmente, insomma, come lettura anche di questo mondo. Chiara Giaccardi, sociologa all'Università Cattolica di Milano, buongiorno. Buongiorno a voi. Ci aiuterà anche lei a capire tutto questo. Ieri abbiamo anche visto delle brutte reazioni sui social network, sulla rete. Tra l'altro Giaccardi insegna sociologia e antropologia dei nuovi media proprio appunto all'Università Cattolica di Milano, e ci aiuterà anche a leggere questo aspetto. Airaudo, che cosa vede? Perché ci si chiedeva anche se qualcuno ha soffiato sul fuoco. Come sa, sono partite accuse molto pesanti al Movimento 5 Stelle. C'è qualcuno del Movimento 5 Stelle, questo va detto, che si è lasciato andare a dichiarazioni piuttosto irresponsabili, direi, no? Mi riferisco in particolare al candidato a sindaco di Torino, però devo dire che la condanna è stata ferma. Ecco, quello che vorrei capire è se secondo lei c'è, innanzitutto, se c'è qualcuno che ha soffiato sul fuoco, e poi dall'altra parte invece se questo fuoco cova sotto la cenere e si fatica ad accorgersene. No, guardi, io penso che noi non dobbiamo guardare il dito ma la luna, cioè il fuoco c'è perché la crisi da 5 anni morde ferocemente questo paese. Molte risposte sono mancate, molte promesse sono state fatte, qualche aspettativa è stata generata. Lei pensi come nelle prime settimane del governo tecnico si pensava che i tecnici, proprio perché lontani dalla politica, avrebbero risolto tutti i problemi, anche quelli delle persone, e così purtroppo non è stato. Probabilmente l'aspettativa era mal riposta, ma anche quella era stata molto fagocitata. Quindi i problemi reali ci sono. Ovviamente gesti come quello di ieri non possono essere condannati, non vanno, cioè, come si dice, non sono giustificabili in alcun modo. però io penso che bisogna comprendere, pur nella drammaticità del momento, cosa quei gesti ci dicono, insieme a tantissimi altri gesti molto più silenziosi. Noi abbiamo ormai centinaia di migliaia, forse qualche milione di nostri concittadini che si sentono soli nella crisi, che sono soli e abbandonati dalle reti sociali, perché i corpi sociali non ce la fanno più, neanche quelli volontari, perché c'è stata la ritirata del pubblico, perché i corpi sociali intermedi, quelli che facevano aggregazione sul territorio, quelli, come si dice, che in qualche modo costruivano la rappresentanza, in alcuni casi anche le risposte attraverso la rappresentanza, sono assolutamente logori o non più rappresentativi, e quindi ci troviamo di fronte anche a gesti come quello di ieri, solitario, disperato, sbagliatissimo, da condannare. Il pensiero non può che andare anche a quei due lavoratori dei carabinieri, dell'arma dei carabinieri, che sono, come si dice, vittime anche loro, ma la crisi c'è e mancano le risposte alle persone. Noi discutiamo tanto di spread, di finanza, discutiamo di che cosa serve alle imprese e non riusciamo a mettere al centro dell'agenda che cosa serve alle persone, ai cittadini italiani, a chi il lavoro l'ha perso, a chi teme di perderlo, a chi è parcheggiato in una cassa integrazione che ormai è senza ritorno, a chi, come si dice, non ha più interlocutore a cui andare. L'altro giorno ero a festeggiare il 25 aprile perché mi hanno invitato a Torre Pellice, dove il sindaco mi raccontava che lui ormai la cosa che fa è cercare assistenza ai suoi concittadini perché non ha più risposte. Il problema non sono gli indigenti, sono quelli che hanno un lavoro ma non riescono più a pagare il mutuo, ma non riescono più a pagare l'affitto. Allora qui secondo me c'è stato un cortocircuito, la politica è apparsa più a difesa dei propri privilegi che a rispondere ai problemi. Chiara, lei voleva sapere se qualcuno soffre sul fuoco. Guardi, io penso che qualche stolto c'è sempre in situazioni di questo tipo, però io non credo, appunto, che si possa guardare il dito e non vedere la luna, ecco. Che è quello che ci scrivono in realtà anche molti ascoltatori, devo dire la verità, in questo momento sulla nostra pagina Facebook su 9 in punto, e anche me lo scrivono anche su Twitter. Chiara Giaccardi, lei come la legge? C'è una sorta di sfaldamento sociale di questo paese. Ora, naturalmente, parliamo di un episodio che non sappiamo come definire, perché qualcuno dice che è un episodio isolato, altri dicono che in realtà non è un episodio isolato, e come sentivamo alla fine anche dalle parole di Airaudo, c'è qualcosa di più profondo in realtà, insomma. Come la legge lei? Come la leggiamo? Ma io intanto credo che sia non tanto un episodio isolato quanto un episodio emblematico. A me sembra che la migliore definizione del senso o non senso di questo gesto l'abbia dato chi l'ha compiuto, che ha dichiarato: ho voluto fare un gesto eclatante in un giorno importante, non odio nessuno ma sono disperato. In questa frase c'è la sintesi di una condizione estremamente condivisa, come diceva Airaudo, sono assolutamente d'accordo con lui. E sono d'accordo anche sul fatto che bisogna guardare la luna e non il dito, e la luna è una cultura. È vero che non ci sono più i corpi intermedi, che si è sfaldata la solidarietà sociale, lo dichiarava anche Laura Boldrini in un suo messaggio sui social network, appunto, che la drammaticità e la mancanza di questo tessuto di solidarietà che si è dissolto, ma non si è dissolto come la neve al sole, si è dissolto sotto la pressione di spinte culturali fortissime a un individualismo illimitato, a cominciare dalle dichiarazioni che fece Margaret Thatcher in Inghilterra. Io ero in quegli anni lì per il dottorato: non esiste la società, esiste solo l'individuo e le sue famiglie. E questa cultura dell'individualismo è una cultura che si è cavalcata, che si è sostenuta in maniera fortissima e che ha contribuito gravemente alla dissoluzione di quei legami che fanno anche da rete di protezione in situazioni come queste. Quindi da una parte c'è questo processo culturale molto più ampio, di cui lo stesso Movimento 5 Stelle è espressione in qualche modo, di una riunificazione di individui che stanno insieme dietro questo comune nemico. Ecco, mi viene un po' in mente il film L'Onda, dove il professore riesce a tirarsi dietro la classe attraverso questa questo meccanismo di coinvolgimento che non si sa bene dove porti, alla fine sappiamo dove porta. Quindi da una parte c'è questo processo. Sono contraria a dire che è colpa del Movimento 5 Stelle. Il Movimento 5 Stelle non è che una delle espressioni di questo individualismo che poi si ricompone in maniera disordinata. E dall'altra parte c'è quella che Luciano Floridi chiama l'infosfera, cioè noi viviamo in un'infosfera che è fatta di informazione che noi facciamo anche con i nostri gesti quotidiani, cioè il modo in cui io insulto una persona sul treno perché mi ha rubato il posto contribuisce a inquinare l'infosfera in cui tutti viviamo, quindi sia nella quotidianità che sui media, e c'è tanto inquinamento in questo momento. Forse abbassare i toni e cercare di capire cosa sta succedendo piuttosto che cercare il capo espiatorio, il colpevole, sarebbe più utile. Mi scrive Maurizio Morabito su Twitter, mi dice un po' presto per discutere in dettaglio riguardo a cosa voglia dire il gesto di quest'uomo sul quale non sappiamo ancora niente. Beh, forse se abbiamo deciso di parlarne in realtà è probabilmente perché evidentemente qualcosa era nell'aria. Mi scrive Simon, credo, perché ha scritto Simon, o comunque o quel che è, sulla pagina Facebook. Non siamo ipocriti quando si parla dei politici. La soluzione migliore è quella di raderli al suolo tutti insieme. Ho 27 anni e tra i miei coetanei non c'è stupore per quello che è successo, ma è irritazione perché ci va di mezzo chi non c'entra. E se Grillo incita, allora Gasparri e Finocchiaro cosa fanno? Non provocano? Sentiamo Paolo che ci chiama da Verona, buongiorno. Buongiorno. Prego. Niente, volevo soltanto, mi hanno anticipato sul discorso di Gasparri, della Finocchiaro e di tutti quelli che in effetti non è che le parole, qualcuno dice che le parole sono pietre, e su questo bisogna dare atto che anche chi fa parte di partiti istituzionali anche molto più vecchi hanno fatto disastri, tant'è vero che adesso sui suicidi nel Veneto, io parlo da Verona, non se ne parla più e continuano, su questo non è. Poi sul discorso del Movimento 5 Stelle, ma secondo me si gioca tanto un po' sul il non conoscere, non parlo ignoranza perché è una parola un po' troppo grossa, vorrei consigliare a qualcuno, anche tra i suoi ospiti, che vada a fare una riunione tra i movimenti, tra coloro che partecipano al Movimento 5 Stelle, e potrà verificare che di violenza effettivamente non sanno effettivamente neanche cosa, neanche dal punto di vista del parlare. Se dal punto di vista del parlare è una provocazione che fa Beppe Grillo, probabilmente se avesse le parole del politicamente corretto magari nessuno se lo fiderebbe. Ma su questo io gradirei che anche i media andassero a parlare, a vedere dentro nel Movimento 5 Stelle cosa succede, e perlomeno andassero a vedere anche, ed è questo che non viene dato risalto, quello che sono gli interventi del Movimento 5 Stelle, senza contare, a mio giudizio, e dopo qui concludo, quello che è successo al deputato Sarti in merito al discorso delle email sottratte, che nessuno ne parla, ma penso che sia stata una violenza non di poco conto. Sì, in realtà ne abbiamo parlato, e sì, effettivamente è una violenza gravissima quella che è avvenuta, l'hackeraggio delle email di Giulia Sarti e non solo di lei, tra l'altro. Vediamo se abbiamo recuperato Flavio Zanonato, buongiorno. Buongiorno, sono qua. Eccolo qua, come sappiamo, ministro dello sviluppo economico, appena giurato ieri, e ancora per poco suppongo sindaco di Padova, insomma. Zanonato, come legge quello che è successo ieri? Ma sicuramente ci sono aspetti di esasperazione che nascono da una situazione economica particolarmente difficile. Probabilmente ci sono anche elementi discutibili in una persona che ha avuto vicissitudini personali e umane molto particolari, perché ho letto che c'erano anche episodi personali. Non tenderei a generalizzare episodi di questo tipo, bisognerebbe guardare, come dire, probabilmente si accorgerebbe che sono episodi che accadono anche in situazioni diverse, senza che per questo se ne tragga una legge generale. Ma c'è qualcosa di più profondo, Zanonato? Qualcosa, che un filo che lega questo episodio magari agli episodi di suicidi, come ci citava poco fa il nostro ascoltatore Paolo da Verona? Quando ci sono, come dire, ci sono fenomeni che non hanno un'unica causa, ne hanno parecchie, e ogni elemento tende a concorrere in quella direzione. Per esempio, una malattia si prende non solo perché c'è un'infezione, ma perché l'organismo reagisce con debolezza all'infezione. E allora cosa diamo la colpa? Sono più fattori che concorrono a produrre un effetto. Io in questo caso faccio fatica a immaginare che si tratta soltanto dell'esasperazione legata alla situazione economica e sociale che il paese sta vivendo, perché altrimenti paesi che sono in una situazione ben più drammatica della nostra potrebbero vedere suicidi di massa o eventi di questo tipo numerosissimi. Sono fattori che incidono, ma non sono l'unica causa di questi fenomeni. Zanonato, secondo lei c'è qualcuno che ha soffiato sul fuoco? E chiaramente in questo caso mi riferisco al Movimento 5 Stelle. Insomma, quando uno arriva là, molti l'hanno letta così, alcuni, insomma, soprattutto al PDL, dicono, insomma, quando c'è uno che arriva e dice volevo sparare ai politici, insomma, il dubbio viene, ecco. Allora, noi dobbiamo in questo caso garantire più aspetti nel dibattito che stiamo facendo. Uno è sicuramente la libertà di espressione. Non può essere coartata la libertà di espressione neppure del 5 Stelle, con cui non vado d'accordo su nulla, facendo in qualche modo un nesso meccanico che fa è quello che il Movimento 5 Stelle ha in qualche modo creato nel paese, perché finiremo con un potere più diretto. Allora, il clima di esasperazione non va creato, lo sappiamo. Non sono dell'avviso che il 5 Stelle abbia arrivato la mano di chi ha sparato ferendo gravemente due carabinieri. Questo mi pare un'esagerazione. L'ultima domanda che le voglio fare, perché poi sento che la linea va e viene, la perderemo, riguarda il suo nuovo incarico, insomma, perché probabilmente a lei, Saccomanni e Giovannini, tocca il compito più complicato, cioè provare a rimettere in piedi e in carreggiata questo paese, anche insomma arrivando ad alleviare situazioni sociali difficili come quelle che probabilmente stiamo in parte raccontando adesso. Da cosa intende partire? Io so che tra l'altro non se l'aspettava nemmeno questa nomina. Sì, non mi aspettavo questa nomina e non mi aspettavo questo tipo di incarico, che trovo davvero particolarmente impegnativo e pesante. Sono un po' preoccupato di essere all'altezza delle aspettative, o almeno non deluderle completamente. Allora, il problema che ritengo più importante in assoluto è la ripresa delle nostre attività produttive. Intorno a questa poi si ruotano e si risolvono tutte le altre questioni, quella occupazionale, quella dell'occupazione dei giovani, quella di tutte le attività che richiedono in qualche modo poter usufruire di un reddito e di risorse. Quindi dare una mano alle aziende perché riparti la loro attività produttiva, riparti attraverso questo l'economia. Questa è la cosa che ritengo più importante, non perché non avverta l'importanza per esempio della disoccupazione, ma perché ritengo che così sia addenta in modo concreto il tema occupazione. Ma come ministro? È questo il problema. Ci sono varie cose che bisogna che mettiamo in ordine. Adesso mi farò un'idea più precisa, ho una scala di riferimento più piccola che quella della mia realtà. Esatto, io quando ho visto la nomina, vedo sindaco del Nord-Est nominato ministro dello sviluppo economico, la prima cosa che ho pensato, il patto di stabilità per i comuni virtuosi, che è un nostro pallino, un pallino anche di questa trasmissione, se vogliamo. Questo per esempio è un aspetto importante, perché il patto di stabilità oggi, quello interno, che non va confuso con il patto di stabilità che l'Italia deve rispettare a livello europeo, quello interno non consente ai comuni di sviluppare attività e investimenti che potrebbero creare occupazione. Allora, tutte le attività che creano ricchezza, occupazione, rilancio dell'economia dovrebbero essere svincolate da questo patto, perché altrimenti sì, inibiamo la possibilità di ripartire. Anche questo è un problema delle piccole e delle medie aziende di cui parlavo, perché vuol dire poterle pagare, per esempio, adesso qualcosa su questo si è fatto, vuol dire poter ribandire. dire gare, rimettere a posto pezzi del paese che anche solo sul campo delle manutenzioni ha bisogno di un lavoro immenso, e quindi penso che questo sia uno dei grandi elementi. Togliere questi vincoli così rigidi significa far ripartire un pezzo, non tutta, ma un pezzo della nostra economia. La prendiamo come un impegno, come un suo impegno preso ai microfoni di Radio 24. Molto volentieri, mi darò molto da fare su questo. 9 in punto. Un po' di messaggi su Facebook. Luca ci scrive: ma dove vivete? Vi rendete conto che l'unica colpa è della vostra qualsiasi classe politica che ha rubato, saccheggiato, corrotto e tutto è il contrario di tutto in Italia. Hermes: i politici sono stati fortunati fino ad ora che la gente si è suicidata, perché se invece di farle basta avessero rivolto qualcosa verso di loro, a quest'ora avrebbero cambiato atteggiamento da un pezzo. Nico: ma a soffiare sul fuoco sono stati semplicemente gli apparati di partito, PD e PDL, il non volerlo riconoscere è allucinante. Fulvio ci scrive: il fuoco si sarebbe alimentato da solo. Sentiamo anche Maurizio da Napoli, buongiorno. Buongiorno, un'osservazione rapidissima, perché mi dicono che il Movimento 5 Stelle è quello che soffia sul fuoco. Ma avete visto ieri i report? Avete visto che il ministro De Lorenzo, che normalmente si incontra a Capri con due signorine brasiliane, va in giro e io trovo nei miei ambulatori persone che non riescono neanche a farsi un'ecografia perché non hanno i soldi? Ma com'è possibile questo, dico io? Voi parlate di che ci dobbiamo svegliare, non dobbiamo aizzare, non dobbiamo creare la differenza, l'odio tra le classi, ma voi vi dovete rendere conto della società. L'indagine, più che l'indagine, l'analisi sociologica che ha fatto la dottoressa è perfetta, ma è una indagine che ha fatto 30 anni fa Lombardo Satriano. Non vedo niente di nuovo, si parla, si riparla, la Gabanelli è eccezionale, ma io non posso vedere Cimoli che se ne va in liquidazione portandosi dietro una barca di soldi e un'azienda che ha fornito le cassette del pronto soccorso, oppure gli arredamenti dell'ufficio dell'ATI, non andare avanti, dover chiudere perché hanno pagato prima i liquidatori. Mi sembra possibile questo? Grazie Maurizio, saluto Dario Di Vico del Corriere della Sera, buongiorno Dario. Buongiorno. Che oggi firma il commento su questa vicenda. La domanda che faccio a te è quella che abbiamo fatto all'inizio, e poi ritorneremo da Iraudo e Chiara Giaccardi, se c'è qualcosa, un filo che collega questa vicenda, come anche gli ascoltatori sembrano suggerirci al telefono, appunto, anche su Facebook, su Twitter, tra questa vicenda e anche le vicende di suicidi, la disperazione per la crisi alla quale abbiamo assistito in questi ultimi mesi, in queste ultime settimane. Beh, io diciamo più di cercare un filo che poi deve fare percorsi tortuosi per essere continuo e coerente. È chiaro che c'è un contesto, no? Il contesto è un contesto estremamente pesante, probabilmente quando diciamo questa crisi sarà argomento di riflessione più ponderata o addirittura storica, capiremo meglio le profonde trasformazioni che ci avrà lasciato purtroppo sul terreno certo dell'apparato produttivo, sul terreno politico anche, e quindi anche sul terreno socio-antropologico, insomma. Oggi queste cose le vediamo in corsa e quindi siamo portati a fare riflessioni ovviamente parziali, scattiamo delle fotografie. Se uno mette tutte le fotografie insieme dice c'è un filo, certo c'è un contesto particolarmente drammatico, per certi versi inedito, di cui queste fotografie rappresentano singole immagini, singole istantanee. Giorgio Iraudo, ha sentito, ha letto qualche commento che ci è arrivato, ha sentito anche gli ascoltatori, insomma, lei adesso è dentro il palazzo sostanzialmente. Sì, no, e che effetto le fa sentire tutto questo? Perché come sente, le cose sono molto dure, molto dure. Ma io penso che quello che dicono i vostri ascoltatori sia vero, cioè penso che sia la realtà. Mi è sembrato, come si dice, Zanda, nonostante sia un, mi è sembrato che, come si dice, il sindaco che sta per diventare ministro, nonostante sia un sindaco che sicuramente frequenta i territori come tutti i sindaci, come si dice, la faccia un po' troppo semplice. Io credo che ci si attenda, che l'opinione pubblica si attenda segnali, segnali di cambiamento sulla morale, segnali di cambiamento sugli sprechi, che non sono solo quelli della politica, sono quelli per esempio dei manager pubblici, sia delle società parapubbliche, spesso inquisiti ma spesso liquidati, per fare un esempio. Credo che ci vogliano segnali forti. Non so se questo governo che nell'emergenza abbiamo costruito sarà in grado di darli o sarà, come si dice, bloccato dai veti contrapposti. Dare la colpa al Movimento 5 Stelle a me sembra una sciocchezza. Capisco l'uso politico che se ne fa, nel senso propagandistico, ma mi sembra una sciocchezza perché per certi versi lo stesso Movimento 5 Stelle, il suo ampio consenso elettorale, più che le persone, il vostro ascoltatore che diceva che le riunioni, Toni, a me è capitato di frequentarle negli ultimi anni, avendo frequentato il Movimento della Decrescita Felice, e non posso che testimoniare quello che ha detto il vostro ascoltatore, ma il grande successo elettorale di quel movimento dice che c'è un disagio che lì è stato incanalato in una risposta politica discutibile. Io non condivido molte soluzioni, mi piacerebbe discuterne altre, qualcuna la trovo di assoluto buonsenso, però la realtà è molto dura, richiede risposte rapide e davvero di cambiamento, anche nei comportamenti. Abbiamo tutti elogiato i comportamenti del nuovo Papa e, come si dice, adesso la politica è attesa a comportamenti analogamente forti, però sul terreno delle risposte alle persone. Però non serve difendersi dalla realtà, io trovo che ci sia un eccesso di difesa, ecco, lei diceva il palazzo, nel palazzo mi sembra che ci sia un istinto connaturale a chiudersi, esaltando quello delle istituzioni, che è importante, fondamentale, vanno rimotivate, ma io credo che le istituzioni si rimotivano all'occhio dei nostri cittadini e dell'opinione pubblica se si aprono, se si fanno compenetrare, se dimostrano di essere riformabili, di essere cambiabili anche dalla partecipazione dei cittadini e non solo da deleghe forti. Ancora qualche altro messaggio? Come vi dicevo, oggi è una trasmissione molto costruita su quello che ci state dicendo, perché è importante. Su Twitter Massimo mi dice, come evidente da messaggi e telefonate, l'episodio di ieri purtroppo è solo la punta di un iceberg. C'è qualcuno durissimo, dice, ha solo sbagliato bersagli, arriverà l'ora per quei signori che sono chiusi nei palazzi del potere. Quindi, ve li leggo solamente per dare anche una testimonianza di un pezzo del clima che si respira. C'è chi, duro anche nei confronti della persona che ha sparato, ed è Angelo Ubaldo, dice: certa, Italia è antropologicamente convinta che la politica debba farsi carico anche dei fallimenti privati dei singoli. Antonio da Caserta, buongiorno. Buongiorno, buongiorno. No, io dicevo, secondo me questo va bene, tutto quello che è stato detto, c'è stato un grosso, fino adesso, una grossa pecca politica. Però, dicevo io, questo signore ha comprato una pistola 4 anni fa. Voglio dire, se non ammazzava qualcuno, ammazzava qualcun altro, ma io non penso che sia per la situazione politica. Sicuramente dei problemi suoi, mogli che aveva perso 2 mogli, eccetera, eccetera. Non la metterei su questo fatto così. Non lo so. Sì, capisco la sua opinione. Sentiamo anche Luigi da Como, buongiorno. Buongiorno. E vorrei segnalare 2 cose. Prima cosa, attribuire a Grillo la paternità di un attentato, perlomeno non paternità diretta ma indiretta, l'attentato fatto da ieri da quel signore, praticamente è una, per me è una cosa assurda, perché dobbiamo ringraziare i grillini che con il loro intervento hanno buttato fuori dal Parlamento i vari Fini, i vari Rutelli, i vari Di Pietro, eccetera, eccetera. non sono riusciti a fare la pulizia completa perché mancavano poi dopo di altri elementi. Cioè, e nessuno ha notato, quando Napolitano ha fatto il suo discorso bellissimo, attenzione, segnalando tutte le discrepanze, il passaggio nel quale diceva Napolitano: sono 60 anni che io sono dentro, perché a 28 anni ne ho 88, sono dentro in questa situazione. Ma perché prima non ha mai segnalato le ruberie, i boiardi di Stato che ci stanno condizionando? Attenzione, io interpreto il gesto fatto da questo signore, questo di sparare, condannato, attenzione, ma perché ha sparato i carabinieri che non c'entravano un cavolo di niente, e l'animale, e noi siamo diventati degli animali, quando viene messo alle strette si deve difendere in qualche modo. E allora, secondo la sensibilità del singolo, uno si diventerà parole, l'altro si difende atti. Poi la disorganizzazione porta a sparare i carabinieri, non a quelle teste di cavolo poco intelligenti. Attenzione, non ho votato 5 Stelle, ma purtroppo mi sono fatto fregare da Oscar Giannino, che definisco un gran cretino. Basta, questo è quanto volevo dire. Vabbè, insomma, non spiace che non ci sia più qui Oscar per potersi difendere da affermazioni, insomma, adesso questo siamo al limite dell'ingiuria, insomma, lasciamo perdere. Invece vorrei ricoinvolgere Chiara Giaccardi, lo ricordo perché l'abbiamo sentita solamente all'inizio, che sociologa dell'Università Cattolica di Milano, ci fa notare, penso riferito proprio a quello che diceva lei, in parte forse a quello che diceva Iraudo, mi fanno notare sulla pagina Facebook, dicono, insomma, dicono Giaccardi imputa la tensione di questi giorni all'individualismo thatcheriano, in realtà forse era più Airaudo, di cui il Movimento 5 Stelle sarebbe il principale esponente. Io non credo che abbia detto quello che dico è che perché dice in realtà il Movimento 5 Stelle è il movimento più collettivista in Italia, e questo in effetti è oggettivamente vero. In realtà, da quel che ho capito, quello che stava dicendo lei è che di fronte al disagio che genera in parte l'individualismo, il Movimento 5 Stelle ha fatto da collettore, no? In sostanza. Sì, è una risposta un po' disordinata, ma io sono assolutamente contraria ad attribuire al 5 Stelle la paternità di gesti come questi. Era semplicemente, anzi, un tentativo di dire: non è questa la soluzione, ma questo non è nemmeno, diciamo, il motivo, la causa del movente. No, io vorrei dire una parola su un meccanismo tipicamente antropologico che abbiamo perso, che è la ritualizzazione della violenza, perché comunque una carica di violenza in tutti i sistemi sociali c'è e trova di solito delle forme accettabili di espressione, come per esempio il tifo calcistico è una forma di violenza ritualizzata che sta dentro o dovrebbe stare dentro un contenitore, però più si indeboliscono i legami e più questo contenitore diventa fragile e rischia di saltare. E purtroppo la politica è diventato un ambito di espressione di odio ritualizzato, a cominciare da quando i capi sono stati sventolati in Parlamento, ma forse anche prima. E per il suo carattere autoreferenziale, in questo sono d'accordissimo con Airaudo, la politica ha perso le sue radici, che sono nella vita delle persone, nella concretezza della vita delle persone. Vedo tante battaglie di bandiera che non hanno a che fare con la vita delle persone normali, anche se la persona normale non è una categoria sociologica, ma è una, appunto, una realtà. E quindi, per questa sua autoreferenzialità, la politica si presta a fare da capo espiatorio di un disagio che esplode in modo disordinato. E io credo, da persona che si occupa di media, che quello che dicevo prima sia importante, cioè che i media non possono diventare a loro volta l'arena di un'espressione disordinata di violenza verbale. È l'opposto di quello che diceva Habermas, che in effetti si dimostra che non aveva ragione, cioè la sfera pubblica non è una sfera di confronto tra opinioni razionali, ma sta sempre più diventando il luogo in cui si manifestano delle emozioni disordinate che poi producono delle spirali, appunto, di violenza verbale, che assolutamente inquinano un momento già difficile da vivere. Allora, citava Airaudo la figura del Papa. Io credo che in questo momento nessuno sia più disposto ad ascoltare dei grandi proclami, appunto dei discorsi programmati. C'è bisogno di testimonianza, e la testimonianza è limitata, cioè sono dei gesti concreti, tangibili, che hanno dei piccoli effetti immediati da parte di chi si è preso la responsabilità appunto di risollevare le sorti di questo paese, ma anche da parte di tutti noi, cioè ciascuno di noi è un testimone di qualche cosa, e questo credo che sia importante, così come è importante cambiare il nostro linguaggio. Io lo dico con un linguaggio diciamo religioso, ma che è quello che poi si usa anche in rete eccetera, cioè smettiamola di maledire, proviamo a benedire, nel senso di dire bene, cioè di dire le cose buone. 9 in punto. Raggi, dite che stiamo strumentalizzando lo status su Facebook postato da Vittorio Bertola del Movimento 5 Stelle di Torino. Allora, per evitare ancora queste frasi e queste accuse, lo leggiamo integralmente. Scrive: il vero problema non è che qualcuno, magari uno squilibrato, vada davanti a Palazzo Chigi e spari durante il giuramento del governo. Il vero problema è che in questo momento, ne sono assolutamente certo, ci sono alcuni milioni di italiani che pensano: peccato che non abbia fatto secco almeno un ministro. Ora, con tutto il rispetto, come avete sentito qua, non c'è stato nessuno degli ospiti che abbia attribuito al Movimento 5 Stelle aperte virgolette la paternità del gesto, nemmeno alla lontana, quindi come sentite stiamo cercando di fare una trasmissione il più equilibrata possibile da questo punto di vista. Quindi lasciatemi dire, in merito a questo status pubblicato su Facebook, che da chi ha un ruolo sostanzialmente istituzionale sarebbe lecito aspettarsi frasi lievemente diverse, quantomeno nei toni se non nella sostanza, almeno per come la vedo io, poi per carità magari son minoranza, anzi molto probabile. Corrado ci chiama da Rimini, buongiorno. Buongiorno, salve a tutti. Io volevo intervenire su una cosa abbastanza semplice. Volevo sapere se esiste un politico, una classe politica che dia speranza. Cioè, qual è un leader politico che trasmetta questa sensazione, cioè perché se non c'è speranza, se uno è disperato, cioè è abbandonato. Cioè, anche Grillo, Bersani prima, non trasmettono speranza in qualcosa, anche lo stesso Grillo, speranza in che cosa? Cioè, c'è una certa rottura, c'è una certa... Non trasmettono speranza in un, si dice sempre, in un cambiamento, in una situazione che possa cambiare, neanche questo, cioè proprio se non c'è speranza... Se non c'è speranza non c'è visibilità del futuro ed è difficile andare avanti, capisco cosa vuol dire Corrado. Sentiamo Massimo da Brescia, buongiorno. Buongiorno a tutti. Sì, io rimango perplesso da questa espressione di dramma assoluto e molto intenso dato da questo gesto disperato, che poi diventa un buon motivo per affrontare certe discussioni, magari anche un po' più seriamente in Italia, perché sono anni dove non si affronta il problema della carenza legislativa, dove la macchina giudiziaria ostacola invece che agevolare, dove il cittadino comune, l'uomo della strada, si trova con le spalle al muro in una reale situazione drammatica di impotenza e di carenza di speranza, come diceva l'ascoltatore prima di me, ma una speranza di avere delle risposte, molto banalmente. Qualcuno prima banalizzava dicendo: ci sono paesi molto più in crisi di noi, allora lì dovrebbero esserci dei suicidi di massa. Io non lo so se ci sono paesi che come contesto a 360 gradi sono nella nostra stessa situazione, e la classe politica invece si perde in discussioni, in cose molto banali che non riguardano noi persone comuni che dobbiamo tirare fino a fine mese, dobbiamo pagare le bollette, dobbiamo pagare le tasse. Poi vedi i servizi del palinsesto della domenica sera, che ti lasciano ancora più disarmato di come eri prima. Certo, ancora, ancora un riferimento, certo, ancora un riferimento al report. Capisco il disagio, Massimo. Sentiamo anche Sergio da Monza, poi andiamo quasi a chiudere. Buongiorno Sergio. Sì, buongiorno. Senti, io volevo fare due valutazioni. Allora, i politici danno la colpa al Grillo perché fa dei proclami e via, si devono attaccare a qualcosa. Ma quando il signor Boss diceva ci armiamo, andiamo giù a Roma a sparargli, lì nessuno commenta. I signori della Lega sono su, no? Hanno fatto l'alleanza con Berlusconi, se vincevano davano su al governo. Poi un'altra cosa, stringa visto, Sergio, stringa, breve. Sì, allora ieri ho visto la Campanelli, vabbè, e fa venire diciamo la rabbia. Poi ho visto un servizio alle Iene che il signor Fini, Bertinotti prendono un ufficio in centro Roma, il signor Fini ha due macchine blu, non c'entra ancora niente con la politica, è stato buttato fuori, noi spendiamo 500.000 euro a persona, al ministro, perché era l'ufficio dentro lì, no? E queste qua, allora io non prendo neanche una lira di cassa integrazione, dal primo gennaio non prendo neanche una lira e noi spendiamo 500.000 euro perché loro hanno l'ufficio in centro Roma perché sono stati presidente della Camera, ma stiamo scherzando, è logico che dopo la gente va là e gli spara, io sono contento che non gli hanno sparato a uno di quelli là. Grazie Sergio, insomma a parte per il finale, insomma c'era una chicca l'altro giorno, se non erro la scriveva Libero, di Andrea Olivero, il coordinatore di Scelta Civica, che raccontava che dovrebbe avere un ufficio assegnato al Senato, ma è occupato, così raccontava, da 16 anni da un ex parlamentare, quindi non riesce ad accedere al suo ufficio perché c'è un ex parlamentare che da 16 anni si trova abusivamente all'interno di quell'ufficio al Senato. Quindi non so, ecco, se vogliamo è un pezzo di questo racconto che ci ha fatto, se vogliamo anche farci un sorriso su questa cosa, ammesso che queste vicende possano ancora portare sorrisi. Airaudo, in un minuto e mezzo, perché siamo quasi in chiusura, che le chiedo un ulteriore commento a queste testimonianze alla fine che continuiamo a sentire. Ha sentito l'ultima, dice, le dico che non è il solo che ci scrive roba di questo genere, che ci dice di questo genere. No, ma guardi, io non credo che capiti sia solo a me, ma io sia durante la campagna elettorale che negli ultimi anni facendo il sindacalista, man mano che cresceva nel paese questa ondata di suicidi, di lavoratori, di piccoli e medi imprenditori, sentivo a lato, c'erano lavoratori e persone che mi dicevano guarda che io non mi suicido, se mi portano alla disperazione agisco. Sono ovviamente moti di rabbia, di frustrazione, sono stimoli a dire fate qualcosa, fate presto, quindi secondo me tutti quelli che fanno gli stupiti, secondo me esagerano, non si può essere stupiti, perché se è capitato a me è capitato a tutti. Ovviamente è sbagliato, è assolutamente sbagliato, non è quella la soluzione, la politica dovrebbe anche con gesti simbolici liberarsi. Adesso che gli ex presidenti della Camera abbiano per così tanti anni dopo la perdita del loro mandato delle prerogative, secondo me è qualcosa che potrebbe essere cambiato, potrebbe cessare, è già stato ridotto, probabilmente andrebbe fatto. Servono alcuni gesti simbolici in cui la politica dica abbiamo capito, poi però servono le soluzioni. Cioè qua bisogna dire come si ricreano posti di lavoro, come si mantengono quelli che ci sono, come non si lascia nel limbo della cassa integrazione. Ed è quello a cui è chiamato naturalmente il nuovo governo. Io devo chiudere qua, ringrazio Giorgio Airaudo, Chiara Giaccardi, chiedo scusa agli ascoltatori che non sono riuscito a far intervenire, un ringraziamento come sempre al Centralino che ci ha supportato particolarmente oggi, grazie a Carmelo Lauricella in regia, Alessandro Marco Tulli in redazione, grazie a tutti voi per l'ascolto, ci sentiamo domani dopo il GR delle 9. Ricordati! Mancano 63 giorni all'aumento dell'IVA. Radio 24. La passione si sente. 9 in punto.